Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi, di che cosa si parla lunedì? Quasi ovunque, negli uffici, nelle scuole, nei negozi, nelle case, si parla ovviamente di calcio. E allora oggi lo faccio anch'io, e per il piacere di tanti ascoltatori che non vedono l'ora di partecipare a Tempo di Sport, mi mandano già messaggini a lunedì tra le 11 e mezzogiorno per così anticipare il loro commento delle partite. Ho il piacere di avere qua in studio con me Gigi Garanzini. Ciao Gigi. Buongiorno donna Nicoletta. Allora, Gigi, ogni tifoso al lunedì commenta la sua formazione, quella che avrebbe voluto far scendere in campo. Insomma, al lunedì si sprecano le parole e i commenti. E infatti, guarda, tra poco arriverà un messaggio per te, sicuramente. Sì, a me dispiace invadere il tuo campo, cioè, o meglio, che gli adepti invadano il tuo display già di mattina, non dico presto, ma insomma tre ore prima dell'appuntamento. Però è inevitabile, il tifoso deve sfogarsi. E più la sua squadra il giorno prima non ha funzionato, e più si deve sfogare. È difficile che ci siano messaggi, ci sono i messaggi di gioia, i messaggi di sfottò, ma in genere sono quelli di recriminazione, sono quelli di dispiacere, di frustrazione che hanno la preponderanza. 800 24 00 24, se volete intervenire, i messaggi al 349 238 6666. In fondo noi oggi parleremo sì di, soprattutto di salute, e anche di calcio. In questo senso, ciascuno di noi, tifoso o non tifoso, ha una squadra personale che gioca ogni giorno una partita importantissima, vitale direi. Questa squadra ha dei giocatori eccezionali, ciascuno con un compito ben preciso e ciascuno programmato per il lavoro di squadra. Ogni singolo giocatore va allenato, tutelato, perché dia il meglio di sé, e soprattutto perché dalle sue performance dipendono quelle degli altri compagni. Ci difendiamo con le unghie e coi denti per un centimetro, perché sappiamo che quando andremo a sommare tutti quei centimetri, il totale allora farà la differenza tra la vittoria e la sconfitta. La nostra vita è tutta lì, in questo consiste, è in quei 10 centimetri davanti alla faccia. Certo, ma io non posso obbligarvi a lottare. Dovete guardare il compagno che avete accanto, guardarlo negli occhi. Io scommetto che ci vedrete un uomo determinato a guadagnare terreno con voi, che ci vedrete un uomo che si sacrificherà volentieri per questa squadra, consapevole del fatto che quando sarà il momento voi farete lo stesso per lui. Questo è essere una squadra, signori miei. E i nostri giocatori si chiamano Rene Cuore Cervello Fegato. Ho chiesto al professor Giuseppe Remuzzi, coordinatore delle ricerche del Mario Negri di Bergamo, di darci una mano. Professore, buongiorno. Buongiorno. E di fare una sorta di formazione. Mettiamo insieme i numeri del calcio e organi. Fantastico. Proviamo. Allora, il cervello. Sì. Il cervello, quando utilizziamo i numeri di una volta, perché i numeri di adesso non si capisce più niente, uno c'ha 66, 80. Una volta il cervello, secondo me, era il numero 10, e il numero 10, quando ero ragazzino io, era Rivera. E noi abbiamo in linea il vero numero 10, Gianni Rivera, in linea con noi, benvenuto. Buongiorno a tutti, grazie a voi. Gianni Rivera in linea con noi perché è anche testimonial di una giornata molto importante che si celebrerà il 10 marzo prossimo. È la giornata del Rene, a cui appunto Gianni Rivera ha imprestato, no? È diventato testimonial di questa giornata, quindi scende in campo con noi per la prevenzione. Gianni? Sì, mi è sembrata un'ottima cosa, spero che di dare l'immagine giusta, perché è una cosa molto importante quello che si verificherà il 10 di questo mese, e quindi ho cercato di dare anch'io un mio contributo per vedere come sono possibili gli interventi prima dell'essere, del farlo troppo tardi, insomma. Quindi la prevenzione è una cosa fondamentale in tutta la medicina. Credo che il professore che ha individuato il mio numero, vabbè, ma questa era una cosa particolare. No, ma penso che ci creda davvero, è al 10 che ma ha dato, io non il cervello. A me sembra che il cervello fosse il numero 10, ossia quello che era il numero 10, non so se sbaglio. Nel modo più assoluto. No, era così, sì.

punte, professor Remuzzi, questa, un ascoltatore avrebbe proposto l'apparato riproduttivo, perché fare un figlio è un gran bel gol. Bravo, no? Magnifico, sì, è una bellissima osservazione, certo, avremmo dovuto pensarci noi, non ci abbiamo pensato. Marina da Milano mi scrive: mediano, Oriali, lo cantò anche Ligabue, Una vita da mediano. Ma sì, mediani ce ne stati tanti, anche Oriali poteva essere una buona candidatura a sua volta. Insomma, grandi giocatori, li abbiamo proprio abbinati agli organi, parliamo di reni, dobbiamo tenerli da conto, e per farlo è necessario conoscere anche, immagino che un CT lo faccia, i punti di forza e di debolezza per farli giocare al meglio. Dei reni però e della maggior parte delle loro funzioni abbiamo poche e confuse notizie, almeno secondo un'indagine Eurisco. Andiamo. Oggi gli italiani conoscono il rene un po' meglio di qualche anno fa. Ma la strada da fare per mettere a punto efficaci strategie di prevenzione è ancora lunga. Il 90% degli intervistati dichiara di aver sentito parlare dell'insufficienza renale, ma il 60% non è in grado di indicarne la causa. Più della metà degli intervistati, inoltre, crede che la malattia renale dia sempre sintomi. E non sembra essere ancora chiaro l'esperto di riferimento. Più di una persona su tre pensa che il medico di riferimento sia l'urologo. Il 20% cita il medico di famiglia e solo il 17% del campione nomina il nefrologo. Professor Remuzzi, la cosa migliore sarebbe non trovarsi nella condizione di andare né dal nefrologo né dall'urologo, ma mantenere i reni in salute, quindi fare prevenzione. Si può fare sempre, si deve fare. Certo. Come? Noi abbiamo la sfortuna che il rene non respira e non batte, quindi non è immediatamente evidente che cosa succede. Ce n'è un'altra sfortuna che dall'altra parte però è una grande fortuna. Il rene ha una capacità di adattarsi a insulti, a danni, a qualunque tipo di difficoltà così straordinaria che fino a quando noi perdiamo l'80% della funzione del rene non ce ne accorgiamo. Ci sono persone che vengono da noi per un po' di mal di testa, il mal di testa è l'espressione della pressione alta. La pressione alta è l'espressione di un rene che è stato danneggiato in tanti anni di malattia di cui nessuno si è accorto ed è quasi già il momento della dialisi. Quindi il rene ha una capacità di adattamento straordinaria, proprio perché però non batte, non respira, non è evidente e non fa male quasi mai. Quando uno dice mi fanno male i reni è quasi sempre mal di schiena, allora bisogna pensare alla prevenzione in un altro modo, e qui c'è il rovescio della medaglia. Mentre gli altri organi hanno delle cose che sono ovvie, il battito del cuore se è irregolare ci si accorge subito, noi non abbiamo niente del genere, però abbiamo l'urina. E l'urina si può analizzare ed è una cosa semplicissima, è una cosa che non comporta nessun disagio, e dall'esame delle urine noi capiamo non solo come funzionano i reni, ma addirittura abbiamo delle spie che riguardano tutto l'organismo. Ritorniamo al punto di prima: se questi ala, mezzala che abbiamo detto, che hanno un ruolo così importante nell'orchestrare il gioco di squadra, non funzionano bene, e allora è tutta la squadra che va in difficoltà. Certo. E a lunedì ci sono tutti questi che si vogliono sfogare. Noi dall'urina abbiamo un'idea di tutto, possiamo persino prevedere il cuore di questa persona qua avrà dei problemi, analizzando semplicemente l'urina. Allora, fuori l'esame delle urine, 800 24 00 24, Carmelo Lauricelli in regia ride, ma è così. Tra l'altro, qual è l'ultimo esame delle urine che avete fatto? Ogni quanto è necessario farsi l'esame delle urine, professor Remuzzi? Ma io penso che una volta almeno nella vita vada fatto ai bambini. Poi uno dopo i 30 anni è bene che faccia un esame delle urine una volta all'anno. Se uno ha una familiarità per qualche malattia renale, o per il diabete, o per la pressione alta, o per i calcoli, allora è bene che l'esame delle urine si faccia più spesso. Approfitto della presenza di Gigi Garanzini qua in studio con me per portare il discorso sullo sport. Ci sono stati dei richiami, soprattutto a chi fa sport amatoriale, a fare attenzione ai beveroni ricchi di proteine, perché i reni potrebbero essere danneggiati. È vero, professore? Ma c'è una dieta salvareni o degli alimenti che mettono in difficoltà? Ma in realtà il rene, se funziona bene, sa fare tutto. Il rene ci concede la libertà di eccedere. Noi possiamo essere nel deserto. Dicono che Gesù sia stato 3 mesi nel deserto, forse 3 mesi è un po' tanto, però noi possiamo stare nel deserto e non avere accesso all'acqua. Oppure possiamo aver passione alla birra, essere a Londra e passare da un pub all'altro e bere 10 litri di birra, al di là che fa male per l'alcol e sì, per il fegato, ma il rene trattiene acqua quando non ce n'è nel deserto, elimina quando ce n'è in eccesso e lo elimina con una precisione straordinaria. Noi pesiamo sempre uguale, sia che abbiamo bevuto il giorno prima 10 litri, sia che abbiamo bevuto un bicchiere d'acqua. Quindi il rene, se funziona, trattiene quello che si serve, che gli serve, elimina quello che, e lo sa, noi non lo sappiamo, ma il rene ne lo sa. Noi abbiamo bisogno di avere le nostre cellule immerse in un liquido con delle concentrazioni precise di sali minerali, per esempio. Basterebbe un pochino di potassio in più perché il cuore si fermi. Allora il rene trattiene quello che serve se ne prendiamo troppo poco, elimina quello in eccesso. Il rene ci dà la libertà di accedere. Quindi in linea di massima un rene che funziona non ha bisogno di grandi precauzioni, però dobbiamo essere certi che funzioni bene. Se poi il rene non va o ha delle difficoltà, allora sì che dobbiamo stare attenti. Gigi, il rene, diceva il professor Remuzzi, è un giocatore che non si lamenta mai. Io invece, che non capisco assolutamente nulla di calcio, mi sembra che i calciatori oggi si lamentino spesso, no? Ah, questo sì, questo non c'è dubbio. Cioè, il rene è un giocatore d'altri tempi, no? di altre latitudini, di tutt'altra educazione, di tutt'altro spirito di accettazione, direi anche di servizio, cosa che oggi nel calcio maleducato, soprattutto alle nostre latitudini, non c'è più. Anche giocatori che abbiamo citato prima, attuali, tra i più bravi, tra gli eccellenti, eccetera, hanno comportamenti pessimi che non sono renali, ecco, per restare a questa metafora. Professore Muzzi? Sì, lo spirito di servizio, questa è una cosa straordinaria, perché il rene ha veramente uno spirito di servizio, al punto che si sacrifica perché il sangue possa andare alle coronarie, al cuore e al cervello. Ci sono delle forme di insufficienza renale acuta che è dovuta alla disidratazione, per esempio, o alla perdita di sangue. Il rene che cosa fa? Si sacrifica lui. Smette di funzionare lui, a costo di farlo per tutta la vita, perché poi può essere che non riesce più a riprendersi, purché non manchi l'apporto di sangue al cervello e al cuore. Quindi questo spirito di servizio, che sicuramente c'era nel calcio di una volta, è esattamente quello che fa il rene. Direi molto femminile questo rene. Ma io ci direi di sì. Se restiamo al calcio, non mettiamola subito in politica, io direi restiamo al calcio, e sono calciatori prima che avessero i procuratori e gli agenti, che erano più disposti al sacrificio di quelli di oggi. 800 24 00 24, in questa puntata giocata su calcio e salute, in particolare rene. Silvio da Milano, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a lei. Sono in auto, mi sono fermato. Bravo. Volevo chiedere un'informazione. Ho 66 anni. Sì. La settimana scorsa, improvvisamente alle 6 del mattino, ho cominciato ad avere un fortissimo dolore alla schiena che mi scendeva giù verso la gamba destra. Ma terribile, una cosa molto molto molto forte. Ho dovuto chiamare la tua ambulanza e andare in ospedale. In ospedale mi hanno dato una flebo e dopodiché mi hanno detto che era una colica renale. Mi hanno dato del Buscopan e per 4-5-6 giorni un antibiotico. La mia domanda, professore, è: non ho mai avuto una cosa del genere. Ho avuto qualche preavviso un paio di giorni prima con dei dolori verso il testicolo destro. Sì. E adesso volevo chiedere, siccome non potrò fare, come mi hanno chiesto all'ospedale, un'ecografia non prima di una settimana, volevo sapere dal professore se posso continuare, siccome io frequento regolarmente 3-4 giorni alla settimana palestra e faccio uno sport ragionevolmente frequente, se posso continuare a farlo, se questo incide sul fatto di aver avuto questo problema, insomma. Sì. Questo problema potrebbe anche ripetersi. Professor Remuzzi. Sì, questa è una descrizione quasi da libro di una colica renale, una descrizione perfetta. Questo signore ha una predisposizione a formare calcoli, si possono riformare, lo sport non è mai una controindicazione, magari non intanto che uno ha il dolore, ma se poi sta bene non ci sono problemi. Il punto è però che le coliche, dopo averne fatta una, se uno è curato bene non fa più la seconda, perché lei tenderebbe a formare calcoli, salvo che non si capisca il perché. Quindi quando c'è stata una colica bisogna capire perché, e le cause possono essere tante. Quali sono le ragioni? Può essere un calcolo di ossalato di calcio, come è nell'80% dei casi, ma può essere di acido urico, allora la cura è diversa. E poi, una volta stabilita la natura del calcolo, prevenirlo è una cosa che va fatta sempre ed è veramente efficace. Questo è un campo in cui la medicina riesce a fare in modo che il guaio successo una volta non si ripeta. È basato sul bere tanti liquidi, soprattutto acqua, sul prendere delle sostanze che si chiamano citrato, che servono ad evitare che questi cristalli si aggreghino tra loro a formare dei sassolini. Comunque, al di là dell'ecografia, lei poi deve andare in un centro dove fanno la diagnosi al tipo di calcolo a cui lei è soggetto e le dicono come prevenirlo con delle misure semplicissime ma estremamente efficaci. Noi salutiamo Gigi Garanzini, che ritroverete, chissà se alle due poi qualcuno parlerà di rene. Magari potrebbe essere, facciamo questo processo sull'esame delle urine, ho trovato tracce ematiche piuttosto che proteine, eccetera. Approfittate adesso, 800 24 00 24, perché poi il professor Remuzzi dopo mezzogiorno non torna da Gigi Garanzini, è tutto per me, e me ne dispiace molto. Io comunque ho ascoltato sull'attenti, ho fatto tesoro anche sul piano personale evidentemente sanitario e clinico, magari in prospettiva di tutto quello che... Io devo dare la linea, oltre a salutare Gigi Garanzini, devo dare la linea alle strade. È vero che fa bene il limone per il succo di limone? Il limone fa benissimo. Il limone, adesso stiamo facendo proprio uno studio. Il limone è una delle cose per i calcoli, per cui sentiremo parlare fra un po'. Certamente è una cosa di estremo interesse quello che è stato trovato sul limone. Questa è una vera chicca. 800 24 00 24. Andiamo a sentire che cosa succede sulle strade. Ritorniamo qui. Spazio alle vostre telefonate, ai vostri dubbi, ai vostri racconti. A tra poco. Essere e benessere. Allora, il limone, dicevamo professor Remuzzi. Sarà un amico della salute dei nostri reni, lo è già però. Sì, lo è già, soprattutto per il problema della calcolosi di cui abbiamo sentito parlare prima. Ci sono già degli studi, ma non ci sono ancora studi importanti su grandi numeri di pazienti. Lo stiamo facendo e i risultati preliminari sono estremamente interessanti. Certi calcoli si prevengono semplicemente con succo di limone al mattino e alla sera. È una cosa di grandissimo interesse e speriamo di poter dire qualcosa di definitivo anche sulla superiorità del succo di limone o sulla non inferiorità rispetto al citrato, in modo che sostituiamo un farmaco con un frutto, e questo sarebbe questo una cosa magnifico. Molto bella. Ci sono dei farmaci a proposito che possono dare problemi renali, professore? Sì, tantissimi farmaci possono dare. In linea di massima tutti i farmaci possono essere considerati farmaci tossici, perché non c'è farmaco che non sia tossico. Non tutti sono tossici per il rene, ma certamente i farmaci vanno presi soltanto quando servono, proprio per questa ragione. Quindi del farmaco della tossicità siamo quasi sempre certi, anche se non capita a tutti. Del beneficio certe volte sì, certe volte no. Le categorie di farmaci che danno più spesso il danno ai reni sono gli antibiotici e certi farmaci che si utilizzano per i tumori. Abbiamo in linea con noi Roberto, ci chiama da Padova, 800 24 00 24. Roberto, buongiorno. Buongiorno, io volevo intervenire perché praticamente sto facendo l'analisi del sangue da qualche mesetto e con una certa regolarità, perché alla fine dell'anno scorso mi hanno ritrovato nel sangue delle proteine e ultimamente ho fatto addirittura l'analisi del sangue nelle 24 ore e so che il medico ha controllato il rapporto fra proteine e creatina per dirmi se stavo migliorando o no fra una visita medica e l'altra. E adesso mi ha ordinato una ecocardiografia al basso ventre praticamente e niente, l'unica cosa che ha avuto come sintomatologia precedentemente a questo è stato il fatto che ho avuto un'influenza, un grosso mal di gola. Io avevo letto che poteva essere anche una tracheite, volevo sapere un attimo. Poteva esserci una relazione. Professore, io penso che parliamo di proteine nelle urine più che nel sangue. Nel sangue le proteine ci devono essere per forza. Ci sono malattie associate a proteine anomale, ma qui entriamo in un altro campo. Credo che lo ascoltatore si riferisca a un rapporto albumina-creatinina, che è un rapporto che può essere alterato nelle urine ed è certamente un'espressione magari di una malattia renale anche molto iniziale, quindi è una cosa che va approfondita come giustamente gli hanno consigliato di fare. E a proposito di prevenzione, talvolta può capitare ai nostri bambini, ai nostri ragazzi di fare un esame delle urine, magari devono essere operati di tonsille oppure per una visita per fare attività sportiva. In linea con noi abbiamo la professoressa Rosanna Coppo, primario, buongiorno, buongiorno. All'ospedale infantile Regina Margherita e presidente della Società Italiana di Nefrologia. Professoressa, buongiorno. Buongiorno. Abbiamo giocato anche a calcio con Gianni Rivera, che è testimonial della giornata del rene, voluta proprio dalla Società Italiana di Nefrologia. Ma io chiedevo a lei di dare un consiglio alle mamme, ai genitori. Talvolta l'esame delle urine dei nostri ragazzi presenta qualche anomalia. Noi mamme subito ci preoccupiamo. Quando dobbiamo farle? Quando possiamo stare tranquilli? E quali controlli nel caso e nel tempo dobbiamo fare? Certo. Innanzitutto bisogna premettere che le malattie di rene possono iniziare anche nei bambini e negli adolescenti e più delle volte non hanno sintomi e possono diventare manifeste soltanto nella vita adulta e magari quando è tardi. Quindi sicuramente, come dice lei, la prima prevenzione deve cominciare proprio nei nostri bambini. L'esame dell'urina è un esame molto facile, costa pochissimo e dà moltissime informazioni. L'unica cosa che dobbiamo imparare, che spesso non si fa, è a non trascurare i risultati. Cioè, se io faccio un esame dell'urina perché, ad esempio, un ragazzo deve cominciare un'attività sportiva o così perché fa dei controlli di salute, può capitare di trovare delle tracce di sangue o delle tracce di proteine. Allora, se queste non sono persistenti e ripetendo il controllo vanno via, può benissimo essere stato un fatto intercorrente. Però quello che è importante, non bisogna considerare brevemente che non sarà niente o sarà una cistite o poi passa, va ripetuto l'esame. È un esame molto facile e se per caso si trovano che queste tracce di proteine, tracce di sangue nel tempo tendono ad aumentare, allora bisogna aumentare il livello di indagine. Quindi non preoccupatevi, ma non dimenticatevene, controllate nuovamente. Professoressa Coppo, si dice la prevenzione inizia in fasce, no? Ma in realtà per il rene potrebbe ancora prima, nella pancia della mamma, perché attraverso l'ecografia si possono proprio vedere i piccoli reni e quindi valutare la loro salute, quanto sono formati, se hanno delle anomalie, e su questo bisogna fare molta attenzione, c'è molto da dire. Certo. In passato nessuno sapeva se aveva un rene o due reni, lo si sapeva magari soltanto quando succedeva un problema, una colica renale, qualche cosa, e si faceva un esame radiologico. Ora la disponibilità di avere l'ecografia in gravidanza permette delle informazioni formidabili, di sapere se i reni non soltanto sono uno o due, ma soprattutto se sono malformati, se la loro struttura è normale. E questo dato è molto importante, perché sapere che un bambino ha una malformazione delle vie urinarie fa sì che si alza il livello di attenzione, per esempio per le infezioni. Sì. Le infezioni possono essere un evento molto da poco, se uno ha una situazione renale anatomicamente normale, ma può essere invece un problema più grande se c'è. Oltretutto è anche risultato negli ultimi anni un altro dato molto interessante, cioè nei bambini che nascono a basso peso neonatale, minore di 1500 grammi per esempio, i reni continuano a maturare un po', ma sono più piccini. Ma rimangono più piccini, rimangono in ogni caso di una massa renale inadeguata a quello che è lo sforzo durante la vita, quindi sono più predisposti ad avere ipertensione, più predisposti. Quindi questi bambini da adulti dovranno essere controllati. Esatto. Ecco, noi il messaggio che vogliamo mandare oggi in anticipo rispetto alla giornata del 10 del rene è: professor Rebuzzi, controllare, senza preoccuparsi, ma tenere d'occhio alcuni parametri, alcuni valori, ad esempio, dell'esame delle urine, che possono raccontarci molto. Sì, è interessante quello che diceva la professoressa Coppo adesso. Noi abbiamo delle pratiche che sono la fertilizzazione assistita, per esempio, per cui delle volte abbiamo due o tre gemelli. Sì. Questi hanno i reni più piccoli, hanno meno glomeruli, che sono le unità funzionali del rene, quello che insieme prima abbiamo detto fa il nefrone. E alla lunga possono avere la pressione alta e andare incontro a malattie del cuore, andare incontro al diabete. Tutto questo si può sapere prima e si può prevenire. Quindi i bambini che hanno un peso piccolo alla nascita vanno guardati con grandissima attenzione. Per esempio, i neonatologi hanno fatto uno sforzo enorme di poter far vivere dei bambini sempre più piccoli. Allora tutti sono felici e dicono: ah, abbiamo un bambino piccolissimo che riesce lo stesso a vivere. Questi bambini piccoli hanno reni piccoli, hanno meno glomeruli, avranno ipertensione. Se mangiano come gli altri, alla fine avranno una malattia renale cronica. Quindi attenzione, la dieta è fondamentale, non per uno che ha rene normale, ma in quei bambini lì. Professoressa Coppo, grazie per essere stata con noi. Professor Remuzzi, grazie, ci siamo tra l'altro anche divertiti. Buona giornata a voi e vi aspetto domani. Essere e benessere.